Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde dindonda. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi di felicità. È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori, si sveglia la città più dolcemente, persino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì, ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Benvenuti, benvenuti a una puntata particolare dedicata a un musicista meraviglioso, Gorny Kramer. Non so se qualcuno se lo ricorda, io spero proprio di sì, perché è un musicista che abbiamo amato fin da quando eravamo ragazzini, lo vedevamo spesso in televisione. È un virtuoso, un musicista che ha amato il jazz come pochi, ha suonato con Louis Armstrong. Oltre che autore di canzoni, che sono quelle che ascolteremo in questa puntata, Kramer è stato un virtuoso della fisarmonica, un abile arrangiatore e un valente direttore d'orchestra. In breve, un autentico maestro. Allora, qui ci sono molti titoli, scorrendo i quali non si potrà fare a meno di fischiettarli o di canticchiarli, anche solo mentalmente. Si tratta infatti di motivi che sono ancora nell'aria, nonostante la maggior parte di essi abbiano più di 40 anni, forse anche di più, anche 60 di vecchiaia. Diceva Kramer, ho frequentato il conservatorio di Parma, quello di Toscanini, studiavo il contrabbasso, mi diplomai nel 30, avevo 17 anni, e allora sognavo di diventare un grande direttore d'orchestra, avevo orecchio, disponevo anche di una grossa memoria musicale. Poi però mi ha preso la febbre del jazz. Diciamo che è pressoché impossibile riassumere la carriera artistica di Gorny Kramer. 40 anni di attività, con particolare riferimento al contenuto di questo disco, perché negli anni 50 e 60 l'attività di Gorny Kramer si svolse soprattutto nel campo della rivista e della commedia musicale, con una lunga collaborazione col binomio Garinei e Giovannini, e ha fatto un sacco di commedie di cui ascolteremo la musica. Ma adesso passiamo ad Amore Fermati, portata al successo da Fred Bongusto, firmata sempre da Gorny Kramer. Ben arrivati. Amore fermati, questa sera non andartene, un'orchestra tra le nuvole la tua canzone suonerà. Amore, baciami, siamo soli, amore, baciami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Il mar, stasera appartiene a noi. La luna negli occhi tuoi stasera mi fa sognare. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai così. Fred Bongusto con Amore, fermati. Dicevamo che la lunga collaborazione col binomio Garinet e Giovannini gli ha assicurato a Gorny Kramer un posto in primo piano nel mondo della musica leggera, non soltanto italiana. Kramer ha firmato le musiche di ben 16 spettacoli del famoso team di autori. E adesso ne ascoltiamo una che si chiama Oh Baby Kiss Me. Mattina fatta apposta per l'amore. La voce è quella di Ernesto Bonino. Margellina, io portavo a spasso il cuore. Quando all'improvviso, mentre sto sopra pensiero, ecco una ragazza dall'aspetto forestier, fosse inglese oppure spagnola, di New York o di Paris, dal momento che era sola io le mormorai così. Oh baby kiss me, please kiss me, tu non capisci o non vuoi capire, besame mucho, mucho, non capisci ancora, e allora ti dico embrasse-moi. Oh baby kiss me, please kiss me, ma tu continui nel non capire. Io ti dirò perciò così, dammi un vaso, Marie. Kiss me, please kiss me, tu non capisci o non vuoi capire, besame mucho, mi vida mucho, non capisci ancora, e allora ti dico embrasse-moi. Oh baby kiss me, come on, please kiss me, ma tu continui nel non capire, sei di New York, Madrid, Paris. Oh baby kiss me, please kiss me, oh baby hold me, kiss me, non capisci ancora, lasciati baciar like this. Come on baby, don't make me suffer. Simpaticissimo Ernesto Bonino. Diciamo che Kramer ha firmato le musiche di ben 16 spettacoli. E praticamente ci sono Un trapezzo per Lisistrata, Giove in doppio petto, Atanasio Cavallo Vanesio, L'adorabile Giulio, La granduchessa e i camerieri. Sono gli anni d'oro della rivista, poi divenuta commedia musicale, e molte delle canzoni qui presentate sono tratte da questi spettacoli. Quella che stiamo ascoltando infatti è Ho il cuore in paradiso, portata al successo da Corrado Lo Iacono, che recitava appunto in questa commedia. La commedia si chiama Giove in doppio petto. Corrado Lo Iacono. Oggi mi sento milionario perché ho il cuore in paradiso. Tutte le rose non hanno spine per me. Ho il cuore in paradiso verso il domani. Ci incamminiamo. Le mani in mano, ci ripetiamo, t'amo, aria di festa, giorno in Technicolor, ho il cuore in paradiso e sento il paradiso in cuore. Tu per tu fantastichiamo nel cielo blu, scarabocchiamo, t'amo, fiori d'arancio per un sogno d'amor, ho il cuore in paradiso e sento il paradiso in cuore. Corrado Lo Iacono, ho il cuore in paradiso, bellissimi questi brani della commedia musicale. E questa era anche quella che abbiamo ascoltato prima, Oh Baby Kiss Me, era tratta da una commedia musicale. Eccoli qua, straordinari, li abbiamo amati, io li ho amati tantissimo, noi tutti che guardavamo la televisione, il quartetto Cetra, li riconosciamo voce per voce. Sentite che meraviglia. Questa è Donna. Sempre di Gorny Kramer. Per un sì, la la, per un no, la la la. Perché sei donna, gioia di vivere. Donna, favola splendida. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore. Donna, tutto si fa per te, tutto, pur di piacere a te, tutto, e per un sorriso, per un sì, per un no, per te. Sei donna, nata per farti amar, donna, nata per dominar. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama a la. Il quartetto Cetra, straordinari, meravigliosi. Ma c'è un altro simpaticone che arriva adesso, eh? È una voce che riconoscerete sicuramente. Egli si chiama... C'è qualche cosa in te... Nicola Arigliano. Che va diritto al cuore, simpatica sei tu. È un certo non so che, è un'onda di calore, simpatica sei tu. Tu non mi fai pensar a notti di passione, ma a cieli sereni, a rondini in vol, e mi riporti su fra i miei castelli in aria, simpatica, simpatica, simpatica sei tu. Sentite che straordinari arrangiamenti. E mi riporti su fra i miei castelli in aria, simpatica, simpatica, simpatica sei tu. Elegante, straordinario, Nicola Arigliano con Simpatica, sempre firmata da Kramer, Garinè e Giovannini, ma anche quando le canzoncine sono un po' più cretine. La composizione di Kramer è sempre scoppiettante e bella. Questa è... Non lo sa, ma quando passa ride tutta la città. Qualcuno se la ricorda, cantata da Rita Pavone nella Gian Burrasca. Saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un apollo e saltella come un pollo. Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non ha un botto e con le stringhe sui calzoni. Ma Pippo Pippo non lo sa. E serio, serio se ne va per la città. Si crede bello come un apollo e saltella come un pollo. Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet. Le scarpe, porta le calze, non ha un bottone e con le stringhe sui calzoni. Ma Pippo Pippo non lo sa, e serio serio se ne va per la città. Si crede bello come un apollo e saltella come un pollo. Mi ricordo quando questa canzone la cantava la mia mamma ogni tanto per rallegrarmi. Mi cantava questa canzoncina, sentite che belli arrangiamenti. Bene, torniamo alle commedie musicali. Abbiamo detto Un trapezio per Lisistrata, Giove in doppio petto, Attanasio, Cavallo Vanesio, che ci fa pensare a Renato Rascel. Ed eccolo qui, dal vivo, questo è un documento, dalla commedia musicale. Siamo in palcoscenico praticamente. Ed un po' scavezzacollo, un cavallo veramente eccezionale che a voi signori vengo a presentare. Atanasio cavallo Vanesio, mamma mia le arti che si dà, dice che il suo allenatore è Tesio, mentre risulta meglio di chi sta. Atanasio cavallo Vanesio, ha dei lineamenti rococò, di profilo sembra un po' Biarrizio, ma di faccia somiglia a Jean Cocteau, e un po' Cicifu, squasqua, però, se porta una cavalla nella propria stalla, più fanciulla, lei quando esce non è Atanasio cavallo Vanesio, è capricciosetto mica no, mangia sol zollette di glucosio, quando verrà di là la dice no. E già lontana a tempo di passare, esco di isolando appena appena un po', il mio cavallo potrà vedere. Che cavallo, che cavallo, che cavallo. Atanasio, no, un cavallo veramente fuori dell'ordinario, un cavallo eccezionale, direi un cavallo fuori del comune, ma talmente fuori del comune che il sindaco Cioccetti mi diceva sempre, ma perché lo lasci fuori del comune, portalo dentro. No, veramente, c'è poco da scherzare, ma il cavallo è veramente un animale importante. La parola stessa lo dice, cavallo, in latino, equus, equi, e qui mi fermo perché non sono più avanti. In francese cheval, in americano horse, il che significa che quando un popolo chiama orso un cavallo, poi non c'è da meravigliarsi se chiama Paolo Carlini a Hollywood. Sì. Dunque il cavallo fu scoperto nel 1220 o giù di lì, però appena lo scoprirono si prese la polmonite, lo ricoprirono immediatamente. Poi si accorsero che deperiva giorno per giorno, allora mandarono a chiamare il padrone perché gli desse una guardata. Il padrone lo guardò, il cavallo rifiorì. E così nacque il detto che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Certo, i padroni più fortunati sono quelli con gli occhi storti perché possono ingrassare due cavalli in un stesso tempo. Perché Atanasio è un po' sci, proprio squasqua, però, dal dica all'Eliseo ha visto Paolo stoppa, lui galoppa, che non arrivano più, Atanasio cavallo Vanesio, con la radio è sempre a tu per tu, ma se parla Nicolò Tarosio, chiude la radio non la riapre più, e si allontana con la tua di giù, ma non tu l'hanno il vecchio punto. Renato Rascel ha citato Nicolò Carosio, Paolo Stoppa, e mi è venuto in mente che potremmo ascoltare qualcosa da Paolo Stoppa e Rino Morelli da quando facevano gran varietà. Forse abbiamo un documento che posso presentarvi più tardi. Ecco di nuovo il quartetto Cetra. Non ti fidare. Ah, questa è una canzone che Lorenzo Arbore ha messo alla fine di un programma bellissimo che è diventato straordinario perché alla fine era pieno di tanta gente che aveva fatto la radio e la televisione. Miei cari amici vicini e lontani, quando cantano da soli li riconosciamo, li vediamo proprio, il quartetto Cetra, quello pelato, la signora, quello con gli occhiali, quello senza occhiali, più alto. Mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amore. Ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica. non ti fidare, senza un bacio chiamare, a mezzanotte, senza baciare, se c'è la luna non ti fidare, perché perché la non luna mi guardare, a mezzanotte, non curiosare, riesci sempre a farla sentire là. Non ti fidare di stelle galeotte, parla d'amore, ogni felice sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Quartetto Cetra, Bacio a mezzanotte. Questo disco che stiamo ascoltando, che è un omaggio a Gorny Kramer, prova in maniera inequivocabile la validità della canzone italiana, quella autentica dovuta alla penna di autori dotati di mestiere e fantasia. Ecco Betty Curtis. Il brano si chiama Un giorno ti dirò. Forse è un po' diverso rispetto a quelli per la commedia musicale. Un giorno ti dirò. Completamente diverso il sound, no? Rispetto a quelle di Garinè e Giovannini, ma in fondo torniamo alla commedia musicale. Questa è, si chiama Piccola Italy, cantata da Ernesto Bonino, sempre firmata da Garinè e Giovannini. La commedia musicale si chiamava La padrona di Raggio di Luna. C'è una vecchia strada di New York chiamata Piccola Italy, strada all'italiana. Della vecchia Napoli rivive in quella piccola Italy l'aria paesana. Ci sono i panni stesi al sole, provoloni e pummarola. Scugnizzi quanti se ne vuole, tutto come sta qui. Ma dove sta? Ma dove sta lupo che mare? Na barchetella quel lampare, piccola Italy. Io sole mio e solamente due parole, ma chi se m'ha imbriacato il sole come in Italy. Via che m'ha denuso Santa Lucia, così Teresa non c'è, c'è pure lì una piedi grotte serenate, quante guaglione innamorate, ma son meri e non mari. Ernesto Bonino, splendida voce, ma col napoletano non ci siamo proprio, eh? Ma questa via che m'ha denuso Santa Lucia, così Teresa non c'è, c'è pure lì una piedi grotte serenate, quante guaglione innamorate, ma son Mary e non Marie. Oh, oh, oh, piccola Italia. Le 16 canzoni che compongono questo Long Plane sono interpretate nella maggior parte dagli artisti che le hanno lanciate. È stato il caso di Amore Fermati, portata al successo proprio da Fred Buongusto, che abbiamo ascoltato. Un bacio a mezzanotte del quartetto Cetra, Attanasio Cavallo Vanesio con Renato Raschel. E adesso una signora che conoscete benissimo, però volevo mettere un'altra cosa, però forse è il caso di mettere, di tornare a quella signora che cantava prima. Beh, quella signora che cantava prima non l'avete riconosciuta, però è una signora che si chiama, un'attrice molto famosa, si chiama Sofia Loren, e questa canzone che si chiama Soldi, Soldi, Soldi, qui è di nuovo Ernesto Bonino che canta Piccola Italia, però Ernesto hai appena cantato, io vorrei risentire Sofia Loren, perché ecco esattamente, perché grazie, eccola Sofia Loren. È la colonna sonora di un film che si chiamava Boccaccio 70. L'episodio era La Riffa. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi. Beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché la regia di Vittorio De Sica. I soldi vive come un pascià. Sofia Loren. E a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi. Ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià. E a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Straordinari cantanti, attori, fantasisti. Ecco di nuovo il quartetto Cetra che praticamente ha fatto di tutto in televisione con grande eleganza e con grande maestria. Ecco, qui li sentiamo in un brano classico, perché in un vecchio palco della Scala nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in décolleté discese da un romantico coupé. Quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée per ascoltar tamagno la Bellincioni stagno. In un vecchio palco della Scala, che splendida stagion, che ricco cartellon, che elenco di tenori e di soprani. Ma non di Massenet, la Carmen di Bizet, fra Diavolo, l'Ernani, puritani, vespri siciliani. Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet, un sorso di Marsala, due tre marron glacé. E all'uscita la fioraia della Scala offre un mazzolino di pansè. Quel Verdi l'è sempre un titano. Ma è vero che scrive tuttora? Da più di un anno lavora rinchiuso all'albergo Milano. Che uomo! Che tempra! Che mente! Ma dica piuttosto che cuore! Lo ha inteso lei il trovatore? Un po' di silenzio, tenente. Celeste Aida, figlia dell'amore, schiavo sonde Freddo. Quel Verdi, l'è sempre un titano. Però mi si dice un gran bene di un tale, non mi sovviene il nome. Sarà quel toscano. Piccini. Puccini. Puccini, che mente. È un tale che butta giù accordi per conto di Giulio Ricordi. Silenzio, tenente. Un bel di vedremo. E passa le stagioni, si cambia il cartellone. E quanta musica alla Scala. Fedora, Lorelai, Mascagni e Zandonai. E il valzer, ecco il valzer, anche il valzer stradio. Ma poi là dall'America arrivò il richiamo dell'americano a Parigi. Toscanini ci portò. Lui stette qualche giorno e subito in America tornò. Ma fra le novità ancora voleva la musica dei tempi più lontani. Ma non di Massenet, la Carmen di Bizet. Fra diavolo, l'Ernani, puritani, vespri siciliani. Lentamente poi il sipario cala, scendono le luci nel foyer. E vuota già la sala e non rimane che questo vecchio palco della vecchia Scala del gennaio del 93. È buio ormai la sala, la folla più non c'è. Resta solo il vecchio palco della Scala del gennaio del 93. Cantanti o attori, si tratta di personaggi che hanno lasciato il segno nella storia dello spettacolo musicale leggero. Alcuni sono ancora sulla breccia, altri hanno ormai abbandonato l'attività, qualcuno non è più tra noi, ma ne serviamo intatto il ricordo con grande nostalgia. Afrodite quando nacque presso l'isola di Cipro dalla spuma del sole. Ancora un brano firmato Gorni Kramer, Garinei e Giovannini. Ah, per esempio, Soldi, Soldi, Soldi, cantato da Sofia Loren, era tratto da una commedia musicale che si chiamava Un mandarino per Teo. E pudicamente, forse maliziosamente, le sue chiome sciolse e tutta si coprì. Un trapezio per Lisistrata, abbiamo nominato Giove in doppio petto, Attanasio, Cavallo Vanesio, l'adorabile Giulio, la granduchessa e i camerieri. Ma queste femminilità, ah, cos'è questa femminilità? Questa invece è Anna D'Amico. Qual è questa femminilità? Che ci parla della femminilità. Quando un uomo si rigira a guardare me, scruta da capo a piedi, cerca quel non so che è proprio la femminilità, ah, la magica femminilità, ah, la perfida femminilità, arma di Venere. Eccita, stuzzica, provoca, fascina, domina, sgomina. Sì, trionfo di femminilità sarà. Ecco Gorni, alla fisarmonica. Proprio la femminilità, ah, la magica femminilità, ah, la perfida femminilità, arma di Venere. Eccita, stuzzica, provoca, fascina, domina, sgomina. Sì, trionfo di femminilità sarà, trionfo di femminilità sarà. Femminilità, e adesso una canzone cantata da Paolo Bacilieri, ma io me la ricordo dal quartetto Cetra, che si chiama Concertino. Fu la sigla di un noto programma TV degli anni 50, Buone Vacanze, che io non ricordo perché forse non ero ancora nato. Dunque, mentre Domenica è sempre domenica, che abbiamo ascoltato all'inizio, era tratta da una commedia musicale che si chiamava Un paio d'ali. Questa è Concertino. Paolo Bacilieri, Kramer, Garinei e Giovannini. Concertino, al chiar di luna sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin fa il mandolino, plan, plan, plan fa la chitarra, plum, plum, plum fa il contrabbasso. Oh, e mattino, già canti il gallo sopra l'abbaino, e stanco il concertino, plin fa il mandolino, ma resta là, plan fa la chitarra, non se ne va, plum fa il contrabbasso, ma che vorrà, tanto non s'affaccerà. Plim plam plum, plim plam plum, suona suona concertino, plim plam plum, plim plam plum, tanto non s'affaccerà. Plim plim plim, plan plan plan, plum plum plum. Pian pianino, furtivamente s'apre il balconcino, e in festa il concertino, plin fa il mandolino, più forte ancora, plan fa la chitarra con più calor, plum fa il contrabbasso con più vigor, tutto per il nuovo amor, tutto per il nuovo amor. Paolo Bacilieri, Concertino. E abbiamo concluso questo omaggio a Gorni Kramer. Abbiamo ascoltato 15 canzoni composte da questo straordinario musicista. Gorni Kramer aveva un aspetto che sembrava un po' macchia nera, no? Con quei baffetti, un po' cicciottero, sempre sorridente, con questa fisarmonica, con i denti in fuori. Insomma, mi fa ricordare anche Fred Buscaglione, che epoca musicale, che epoca anche televisiva, anche dello spettacolo, veramente straordinaria, solcata da artisti che erano preparatissimi musicalmente, preparatissimi a presentare, a recitare, a fare tutto, erano veramente molto bravi. Grazie a Gorni Kramer, grazie a voi per... spero che vi sia piaciuto restare un po' di tempo con Gorni Kramer. E tra poco vorrei proporvi invece un ragazzo, la musica di un ragazzo che ha avuto molto a che fare con il quartetto Cetra. Tanto è vero che a un certo punto aveva fatto un gruppo dove andava in tournée, dove rifacevano tutte le canzoni del quartetto Cetra. E il quartetto Cetra stesso, così, per premiarlo della sua bravura, della sua capacità, gli ha praticamente regalato alcune partiture con cui loro hanno ricostruito questo gruppo. Ma tra poco. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Salutiamo Mario Riva, straordinario, e facciamo la conoscenza di Sergio Lucchetti. Lui ha lavorato insieme con il quartetto Cetra e ha fatto un disco bellissimo che si chiama La Luna, che voglio farvi conoscere. Mi piace la tua pelle,

quanti chilometri devo fare. Fiore d'argento, resta un momento, tempo di ridere ancora, fatti coprire che c'è vento, c'è vento. Ricordati di me nelle mattine dei giorni di festa, con i miei occhi stanchi appesi alla finestra. Ti porterò con me nelle mani la voce del cuore, ti dedico. Ricordati di me. Non vede niente quando ti lascia stupita, ricordati di me. Quando la gioia improvvisamente respirerà sul tuo seno, ricordati di me. Raggio di sole da intrappolare, raggio di sole in febbraio, come sei piccola sulla mano. Camminerai le tue strade fiera, ti fermerai col sorriso, quando nel cielo troverai scritto, troverai scritto. Di me nelle mattine dei giorni di festa, con i miei occhi stanchi appesi alla finestra. Ti porterò con me nelle mani la voce nel cuore, ti dedico. Ricordati di me. Le tastiere suonate da Joe Louisi, che ha arrangiato questo disco, l'ha curato. Sergio Lucchetti, straordinario, da un album bellissimo che continuiamo ad ascoltare. Tempo fa gli ho chiesto a Sergio quale brano ti piacerebbe riascoltare alla radio del tuo album. E lui mi ha detto: Resto solo e canto. Ed eccolo qui. Sergio Lucchetti, da un album che si chiama La Luna, che non è facile trovare, eh? Ce l'abbiamo quasi solo noi. C'è una festa nella testa e una folla di pensieri canta le canzoni, le emozioni che arrivano spedite dal cuore. Faccio tardi e non ritorno a casa perché mi manca qualcosa. Non è che sei tu che non ci sei più e faccio finta di pensare. Ho bisogno di te come Milano del mare, ho bisogno di te. Corri tempo come un lampo per dimenticare. danza sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace, non mi puoi salvare. E allora resto solo e canto per non mendicare, per non sprofondare più. Ricordi che canta, è un'impresa nell'attesa. Trascorro le notti a fumare, cambio amici, cambierò la casa. Perché mi serve una scusa, non è che sei tu, che non ci sei più. Ti scorderò ma non so come, ho bisogno di te, come ogni cosa di un nome. Ho bisogno di te. Corri tempo come un lampo per dimenticare. La rincorsa diventa una morsa sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace, non mi puoi salvare. E allora resto solo e canto per non mendicare, per non sprofondare più. Come Milano del mare, ho bisogno di te. Corri tempo come un lampo per dimenticare. La rincorsa diventa una morsa sulla giugulare. La tua voce che dice mi spiace, non mi puoi salvare. E allora resto solo e canto. Ai cori Giorgio Rapattoni, Emanuela Cianciarelli. Sei tu che non ci sei più. Sergio Lucchetti da un album che si chiama La Luna, bellissimo, arrangiato stupendamente. Abbiamo sentito molti brani da questo album, ma c'è ancora qualcosa che non ho mai mandato in onda. E si chiama Ridi Ancora, Sergio Lucchetti. Questa è Samarcanda. Le strade come ponti uniscono la terra. Sono come gallerie che dopo tanto andare arrivano in città. Sono questo mare, sono vele al vento e il vento che le ferma. Sono come il treno nella notte che mi porta dove la mia vita cambierà. E poi tu ridi, ridi, ridi ancora. E poi tu adesso fingi che non ci sei. E poi tu ad aspettare me finora. Noi contro ogni senso, guarda, non c'è tempo da perdere. Luce dell'aurora, ridi ancora. Sono come primavera, sono come temporali quando salvano un raccolto. Sono frasi di un racconto, la scialuppa di chi è solo e chi alla fine tornerà. Sono come quei momenti nell'attesa di un ritorno che mi sei mancato tanto. Sono come le carezze che accompagnano promesse, giuro che non parto più. E poi tu adesso puoi salvarti ancora.

tutti, sì, sì, insomma, tutti quelli là. Eleuterio. Vogliono tutti questa festa. Eleuterio. Non si ha da fare. Eleuterio, fermo. Stavamo guardando il mare dalla finestra. Tu ed io, quando improvvisamente, solo per una prenotazione alla Rivieretta, è successo tutto e sei ripartito. Oggi è un altro sabato e stai per tornare. E io che sono diplomatica e comprensiva, farò finta di niente. Ti verrò incontro sorridente. Ciao. Ben arrivato, Eleuterio. C'è di là quello dell'agenzia di viaggi per il conto dei biglietti di aereo per le Hawaii. Ce ne sono due di più di sei. Ho mandato su anche la mamma e il babbo. Poverino. Un 45 giri straordinario della Verve, praticamente adesso mi piacerebbe sentire anche Bossa Bossa. Questo è Desafinado, ma... sono dei 45 giri che praticamente io da piccolo mettevo in un mangiadischi della Volkswagen. Thank you. ha fatto molto piacere riascoltare Rina Morelli e Paolo Stoppa da uno sketch tratto da un programma meraviglioso che sentivamo tutte le domeniche, che era Gran Varietà, dove c'erano praticamente un sacco di attori. C'erano Romolo Valli, Alberto Sordi, e poi vari presentatori, Vianello, Gianni Dorelli, Raffaella Carrà. Adesso faremo un piccolo viaggio fra questi 45 giri. Ecco che è partito Pérez Prado. Pérez Prado che veniva utilizzato, praticamente questo brano è stato riutilizzato addirittura da Nanni Moretti nel finale di un film, tutti con il casco a ballare, un po' come succedeva in alcuni video della Bollywood. E qui c'è il famoso... Oh! Thank you. Perez Prado, straordinario. E adesso un altro 45 abbastanza raro. Io tengo una muñeca, che forse faceva parte di un film con Brigitte Bardot. Tengo una muñeca, pequeña y bonita, que tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca que ríe y su risa es canto que alegra. Tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Yo tengo una muñeca pequeña y bonita. Yo tengo una muñeca que ríe y su risa es canto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro. Mio cielo, mio amor, mi sono fatto tradurre il testo. Io tengo una muñeca, una bambolina che ride e mi uccide il dolore. Gli metto anche il retro di questo 45 giri. E dove vas? Dove vai? Dove stai andando? Tutto così allegrotto. Che ti è successo? Chi hai incontrato? Dove vas? Piaceva molto questo strumento. Donde vas que te veo tan contento? Donde vas con care sin vergüenza? Dove vai che ti vedo così contento? Para la cumbancha, pero eso no va, no, no, que va mi cielo. Yo también necesito divertirme. Dice bien que te vas a guarachar. Si te vas, seguro me voy contigo. Yo también quiero gozar. Te juro, mi negra, voy a gozar si contigo me llevas a guarachar. Yo te juro, mi negra, voy a gozar si contigo me llevas a guarachar. Yo te juro, mi negra, voy a gozar. Me llevas a guarachar. Bellissimi questi 45 giri. Questi li comprava il mio papà e io li mettevo praticamente dentro il mangiadischi di una Volkswagen Maggiolino. E ce n'è un altro, questo è molto bello, questo invece è Armando Trovajoli con la sua orchestra che ci fa ascoltare Polvere di Stelle, Stardust. Armando Trovajoli, grande appassionato di jazz, anche lui come Gorny Kramer ha scritto musiche per tantissime commedie musicali. Questo 45 giri ci fa ascoltare questa meravigliosa partitura. Polvere di stelle. Al piano Armando Trovajoli. Bellissimo questo 45 giri della RCA che noi voltiamo e andiamo ad ascoltare quello che c'è sul retro. Dopo Polvere di stelle, The Man I Love. L'orchestra di Armando Trovajoli da Samarcanda Digital Network, o meglio radiosamarcanda.it, edita al microfono con voi. Thank you. Una selezione tutta in vinile, questo era Armando Trovajoli con The Man I Love. E adesso una ragazza molto simpatica, essa si chiama Caterina Valente. Personalità. Ciò che sento in cuor, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me che sono pazza, pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi Caterina Valente, personalità, un 45 giri straordinario, adesso una vera rarità. Natalino Otto, Babbaci, un 45 giri del 58, Fonit azzurro. Babbaci, canta il ritornello. Babbaci, va tra terra e cielo. Babbaci, ritma col suo dolce suono,

Mi garantisco che questi graffi li ho fatti tutti io, cercando di non far incantare il disco. E adesso, dopo Natalinotto, Gorni Kramer, quanti viaggi abbiamo fatto in questa trasmissione tutta in vinile? Bruno Martino con Brrr, che freddo! Brrr, che freddo! Ma se mi baci sento caldo, un caldo strano che dà i brividi, ed il mio cuore fa bum bum, bum bum. Che freddo, ma con quegli occhi di smeraldo, se tu mi guardi vado in estasi, ed il mio cuore fa bum bum. Bimba, sei un fenomeno, il mio sangue va in bollore, presto dammi un termometro, ho la febbre dell'amore. Che freddo, ma se mi baci sento caldo, un caldo enorme, anzi un caldissimo, ed il mio cuore fa bum bum chi bum chi bum bum bum bum chi bum chi bum chi bum. Mi baci sento caldo, che freddo, ma se mi baci sento caldo. Bimba, sei un fenomeno, il mio sangue va in presto, dammi un termometro, ho la febbre dell'amore. Che freddo, ma se mi baci sento caldo, un caldo enorme, anzi un caldissimo, ed il mio cuore fa bum bum chi bum chi bum bum bum bum chi bum chi bum chi bum. È evidente che ci piace far girare ancora i 45 giri sul giradischi. E pensate che... Ah, si è raffreddato. E pensate che sul retro di questo 45 giri c'era una canzone che ha fatto il giro del mondo, e cioè Estate. È stata suonata in tutto il mondo. Un giorno mi è capitato di entrare in uno studio e di incontrare un batterista che si chiama... In questo momento mi sfugge il nome. E comunque stavano registrando un'orchestra grandiosa, stavano registrando musiche di Armando Trovajoli e Roberto Gatto. E quindi mi disse: stiamo registrando musica da Rugantino. Dico: ah sì? Fatemi sentire. Questa è... Roma non fa la stupida. Thank you. Beh, è stata una cosa stupenda entrare in uno studio enorme, una sala di registrazione, vedere tutta questa orchestra che stava registrando. Io che non ho mai visto registrare un disco, è stata una grande emozione. È una famosa sala di registrazione, io ero in una saletta accanto a fare un altro tipo di lavoro. Roberto Gatto plays Rugantino, e questo è il titolo dell'album. Ci sono praticamente quasi tutti i pezzi più famosi della commedia. Se qualcuno vuole cantare, è libero di farlo, eh? Bellissima esperienza quella di entrare in una sala di incisione e trovare questo gruppo meraviglioso che stava praticamente suonando dal vivo in quel momento. Bene, a questo punto... Hola, come va? Non c'è male, e tu come stai? Tiro avanti. Si gira, si corre, lo sai, lavoro e lavoro, ma tu? Me la cavo, sto ancora augurandomi un sonno tranquillo, speriamo. Quanto tempo? Sì, quanto tempo. Scusami la fretta, è la legge di tutti gli affari. Ma ma quando è che telefoni, quando ci potremo vedere se vuoi? Ti prometto nei prossimi giorni senz'altro ti chiamo. Quanto tempo? Sì, quanto tempo. Tante cose sentivo di dirti, ma anche allora dovevo partire. Anche a me viene in mente qualcosa, ma chissà, lascia andare. Per favore telefona prima che poi devo correre a un appuntamento. Domattina il semaforo. Io ti cerco se vuoi. C'è verde. Ti prometto ci penso, ci per penso. Favore, ci pensi. Addio. Io lascerò che muoia in me il desiderio di amare i tuoi occhi che sono dolci, perché nulla ti potrei dare tranne la pena di vedermi eternamente esausto. Eppure la tua presenza è una cosa qualunque come luce e vita, ed io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto e nella mia voce la tua voce. Io so che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò e in ogni lontananza ti amerò e senza una speranza io so che ti amerò. Lascerò. Tu andrai e accosterai il viso a un altro viso, le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio amoroso ed ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce asserenata. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta. Vi lascio con questo capolavoro costruito da Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho, un disco che si chiamava La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Abbiamo ascoltato Gorny Kramer, Sergio Lucchetti, tanti 45 giri della mia infanzia. Vi lascio con questo samba per Vinicius e ci sentiamo la prossima volta. A presto! Poeta, mio poeta vagabondo, sei un cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore. Poeta, poetino, per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà, chissà quando ti somiglierò, ma tutto quel che so è che succederà. Vinicius, grazie, sarà poeta, mio poeta, camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão. Essa canção improvisada é tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão, do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de di sperare. A fide pra valer, a fide pra levar. Vinicius velho, Saravá. Ma tutto quel che so e che succederà. Vinicius, grazie, sai. Che a fide pra valer, a fide pra levar. Vinicius velho, Saravá. Ma tutto quel che so e che succederà. Vinicius, grazie, sai. Un poco di amore, ma cadenzi, vai ver che ninguém no mondo. Essa é a beleza que tem no samba, né? Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco da poesia, se hoje ele é branco da poesia, ele é negro demais do coração.